19, siete all'ascolto di Radio Pirata 38, oggi in edizione estesa. Dalle 19 alle 20, musica live. A seguire tornerà la vostra conduttrice preferita a raccontare un po' di cose in voce e a continuare a mettere la musica che ci chiedete voi. Il numero è sempre lo stesso, 351-09-13-390. Dai con le richieste, regà, che la prima ora è solo di musica. Oh.

L Pirata 38 e ricordiamo il numero di telefono 351-09-13390 per le vostre richieste di musicali. start dancing. Dance the shit out of your brain. We'll be right back. I wish you could have told me how Tommy died, but I guess we have to be careful about security, you know. Glad he was brave and did his job in the end. Maybe his mother and I raised him right after all. We'll be right back. think they understand what I'm trying to say. I asked a question like this. Are we a lost generation of our people? Add us two equations, but they'll never make us equal. She who writes the movie on the script in the sequel. So why ain't the stealing of my rights made illegal? They keep us underground, working hard for the greedy. But when it's time to pay, they turn around and call us needy. My ground too heavy like the Queen Nefertiti. Give me back my pyramid, I'm trying to free Kansas City. Mix and master vibes like your name Bernie Grubbin. Well, I'ma keep leading like a young Harry Dubbin. You can take my wings, but I'm still gon' fly. And even when you edit me, the booty don't lie. Yeah, keep singing, I'ma keep writing songs. I'm tired of Marvin asking me what's going on. March through the streets, cause I'm willing and I'm able. Categorize me, I defy every label. And while you selling dope, we gon' keep selling hope. We rising up now, you gotta deal, you gotta cope. Will you be electric sheep, electric ladies, will you sleep? Or will you preach? Oh, in giro poche storie, ti vengo a prendere con le rime in calore. A volte easy, a volte nervi tesi, solo al core. Se muoio la volta giù, giusta. L'estate chiede singoli, io metto bombe sotto il culo dell'industria. Bussa alla mia porta, ma che cazzo viene a fare? Io c'ho il sonno che mi scappa e un'altra notte da dover passare. Sigaretta chiede il conto ai miei polmoni, anche se smetto dovrò fumarmi il tuo microfono quando lo suoni. Tu sei una pipa e non c'è un cazzo di confronto, me lo dice la gente qua sotto. Quando monto fanno il disco della base è come acciaio. Io lo taglio perché ho rime a raggi laser. Tu vuoi sapere di che parlano i miei testi? Loro sono la mia banca e fanno solo i miei interessi. Ehi, non mi dire tutto uguale, tutto uguale. Tu e tuo gusto popolare potete andarvene a cagare. Sì, definitivo, quando lo scrivo ti bastano i subsoni che già parli di mercato alternativo. Sai, c'è chi si droga dalle casse di un blaster, senza storia da cantina ed in tasca 100 pali a master. Io continuo fino a che non spegni il nastro. Ho portato squarta ai Banez, se ho da solo non ti basto. Merda, prima di parlarmi della scuola impara a usare il fiato e registrare strofe in una botta sola. Tu sei un bravo ragazzo, cerchi spazio. E a me? A me non me ne fotte proprio un cazzo. Il concerto è sulla piazza, la gente si incazza col veleno. Chiamano le guardie e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Ma tu rimani ancora perché non è abbastanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Ma tu rimani ancora perché non è abbastanza. Dicono sia colpa del volume. Come pronuncio il nome? Con i numeri di sete culiari di Ebesh. Dopodiché non hanno alibi. Adulterio sul suo stereo, sul suo Walkman. Lo hai tradito col veleno e sei mia complice. Sgravo tigri da Tahiti fino a Montprace. Metto in crisi gli indecisi sul da compiere. Elementare, perché ha una mole familiare e non ti puoi sbagliare. Tu chiamami in causa quando soffri. Ti tieni sveglio coi caffè ma stai caccando poco. Adesso è ora che ci sputi una risposta. Chi ti si incula a te? Nemmeno una supposta. Sto riflettendo sotto un cielo azzurro. Con una mano pensa a te mentre con l'altra rullo. Quale vittoria? Leggi libri di storia ma te li impari a memoria. Bastardo figlio di troia col cuore gonfio di gioia. Su, caca la moneta dalla A alla Z. Non ammetto dieta, venditi il locale o fatti un'ipoteca. Chi non ha più voglia di restare se ne vada. Esco col veleno senza freno sulla strada. Non ho più bisogno di capire le tue mosse. Ti sei fatto un nome che la gente non conosce. Ferma i 90, la tua merda non incanta. Ehi, con me, tu sei cibo per i panta. Alzati e levati, che non hai meriti. Fai delle rime vomitevoli, deboli di forma, scarse di sostanza. Vai con le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Ma tu rimani ancora perché non è abbastanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Le guardie, pompieri e l'ambulanza. Ma tu rimani ancora perché non è abbastanza. E tu non puoi vedere l'ambulanza.

la selezione musicale e poi si torna in voce con la vostra speaker preferita. Il numero per le richieste è sempre lo stesso, 351-09-13-390. Seguite anche il profilo Facebook Laurentino Borgata e su Twitter RP38 Radio Pirata 38. Dai regà. Go! ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money. E allora bene, con questa bellissima voce, forse la più bella del mondo, inizia la seconda ora di diretta di Radio Pirata 38 e vi leggiamo le parole di chi ha scelto questa canzone, che torna da Pilates e pensa sempre a noi. Cominciano a insinuarsi dei dubbi su quello che ci viene detto per il nostro bene. Questo è il momento di credere in noi stessi, in noi stesse. È il momento di rimettere in azione un pensiero critico. Tutte e tutti ne siamo dotati. In uno Stato che è antipedagogico e mai, mai ha promosso la sicurezza in noi stessi e noi stesse, che ha sempre cercato di screditare le nostre giuste intuizioni, è ora di cominciare a gridare «qualcosa non mi torna», con coraggio e credendo nel nostro istinto. Qualcosa non mi torna. Richieste che giungono a Radio Pirata 38, una seconda ora di diretta solo per voi. Oggi il tema è come abbattere i droni. Restate all'ascolto e la prossima è dedicata a Svarez di Acido Lido. We'll be right back. E allora a questo punto una dedica speciale a cui ci aggiungiamo qui da tutto il Sesto Ponte. La prossima è dedicata a Nicola Penny. Auguroni, frate, dai, compà. Una comba prima, canta sirene re carabì, niere sparole rinda capì, terremotato su Filippi, mi perde da un bicchiere vi, ma la vita bello a bella vita, piglio pulmani da te la vita, che ti avvia da te che ti avvia, son con più forte cadendo tu immagina fora che mi ne do con banà, spille botteghe cagnelle rire in faccia morto, ritorna so ciò che ammanà, l'amica chiama sta posta, la c'è passata frontiera viene a piglia, sterile son che discorso, quando si tratta di renare vorresti via, in conflitto come stesse vinghi, ma robo della trova pizza mi, pura l'odele soprava cale, quindi più so che nato in guerra cami, problemi buoni cami, droga le cercoli mi, e ho collegamento, vene nei calcoli ri, quando mi parli fatica, ho collocamento, alza volume a manetta, mettono poche vantette, non piatta bullet, ho che non sacramento. Se vai contro chiesa faci da gullet, gioco da bullet, coppe macchinette, ma capo te sempre scegliette. Un mese spengato in cinese, preso rompo vere per chi te sei. Se ti sirene rindamenta, non capisco se finziono si o veramente, ma faccio un balcone che sta a cadere almeno. A capa mi non funziona, un capa che sta gente evidente. Sento sti sirene rindamenta, non capisco se finziono si o veramente, ma faccio balcone che sta a cadere al mento. La capa mi non funziona, un capa che sta gente evidentemente. Scegli sulle podorne che guardi, rima assassino scrive che guardi, papà ma sai che sorderà white, fra come sta come in Perry White, quando vuoi in Paraguay, in amore tu mi mai ferì, perché ti chiudo un do bagagliai. En cache comme un prisonnier, moi j'endure mes peines. Je pèse mes bons mamans, pas moi-même, si mon humour est couleur ébène. Je cherche mon arbre, je cache mes larmes derrière ma grosse paire de Ray-Ban. Qui me défie depuis le vent, la tempête, on récolte toujours ce que l'on s'émancée. Miga, miga, c'est sa monnaie, de rongo, restime, mon nom de manade, mes passes sont sensées. Ruimine et t-shirt, garade, je pèse à mon armade, et venu dans des berries qu'on peine. Quand des compagnies qu'on prend à mon amour, vive champagne, bon fumo, canavour. Bride et pupille, qui pone mal à main. Sono speranza, l'artiste comme zen. Sente sti sirene rindamenta, non capisco se finziono si o veramente, ma faccio un balcone che sta a cadere al mento. A capa mi non funziona, un capa che sta gente evidente. Sento sti sirene rindamenta, non capisco se finziono si o veramente, ma faccio un balcone che sta a cadere al mento. A capa mi non funziona, un capa che sta gente evidente. Yeah. Radio Pirata 38, un'intraprendenza e un coraggio immenso a passare le vostre selezioni musicali. Preghiamo ascoltatori e ascoltatrici di proporci un po' di cassa dritta, qui davvero si giunge quasi al sonno. E allora il tema di questa serata, prendendo spunto da alcuni articoli che stanno circolando, che sono piuttosto interessanti e che hanno colto la nostra attenzione, c'è un duro scambio, un duro confronto qui al Sesto Ponte riguardo come abbattere i droni. Prendiamo spunto da un articolo che oggi ha circolato sul web. Sono proposti 7 metodi. Chiediamo ad ascoltatori e ascoltatrici di insomma spremere le meningi e farci arrivare qualcosa di più interessante. Vi diciamo brevemente questi 7 metodi, senza entrare nei particolari. Insomma, ognuno di voi può cercare su Google o dove cazzo gli pare, perché non è che siamo qua a fare informazione per voi. Quindi studiate, ma nel frattempo fateci il favore, diteci altrettanti metodi. Allora, qui vengono suggeriti un jammer. Insomma, cercate poi che cos'è, perché non è che vi posso spiegare tutto. Laser, vabbè, questa mi sa che ci arrivate. Aquile, ci sono aquile addestrate. Piccioni, qua ne siamo abbastanza forniti. Qua ci ha preso per la gola questa proposta. Anzi, vorremmo quasi affittarne 30 euro l'uno per tutta Roma. E fucile a piombini, vabbè, questa era un po' scontata. Un drone kamikaze e una lenza da pesca che possa funzionare un po' da rete a chi ha padroni. Per favore scriveteci al 351-09-13390. Sappiamo che siete più intelligenti di chi ha scritto questo articolo. She just a girl, the girl you want. She just a girl, she just a girl, the girl you want. She just a girl, she just a girl. Ciò che mi interessa, ma lo scenario è così grigio che attiro negatività per tutto il pomeriggio. Ti sto pensando e non ho voglia di nasconderlo. La testa rifiuta lo studio, sarò costretto a impormelo. La gente esce, muore, rinasce, rimpiazza i vecchi amori che hanno nuove facce. E ogni partenza è una svista. Tra le cose da fare, rispettarti è il primo punto di sta lista. Ma questo treno si allontana e mi rattrista, perché c'ho seri dubbi che il mio amore per te finisca. E ti ricordi quella foto che ridere sul muro a confermare con le altre che devo vivere? Chiamano a tavola, è già pronto. Ripenso un po' a quando quest'estate ti raggiungerò. E quando un giorno tornerai, vorrei rassicurarti, dirti che va tutto bene, ma ho la certezza che non servono parole. È tempo che lo vuole, c'è il sole con nuvole nuove. E quando un giorno tornerai, vorrei rassicurarti, dirti che va tutto bene, sai, quella certezza che allontana le parole. È tempo che si muove, porta via con sé ma non sappiamo dove. Le mani cercano altre mani, controllo le emozioni e la voce quando mi chiami, ma domani la distanza ripasserà a pesare perché è un'età, sappiamo bene che non tornerà. Cerco di spolverare ciò che è vecchio, il volto sembra in frantumi tra i frammenti di uno specchio. Scrivo perché è parecchio che esco e che faccio tardi, e non c'ho voglia di giustificarmi se provano a licenziarmi. Più mi guardo negli occhi e più vorrei trovarmi, ma soffoco le urla, le mie orecchie sembrano una burla. Giochiamo un po' chi si realizza per primo, di il motivo se rimo è perché ancora mi sento bambino. Gli amici parlano di noi, le loro ipotesi affermano con rabbia che Buddy dovrebbe muoversi. La mia famiglia non è pronta a commuoversi, rischio di rimanere un ricordo pronto a rimuoversi. Loro cercano protesi, infatti pensa di meno che gettarsi senza elastico abbracciati dal Grand Canyon. Chiedimi se posso farlo, meglio se voglio farlo. Guardami le labbra mentre parlo, i miei sorrisi ora si perdono in sto spazio. Accompagnano la terra con le ultime foglie a marzo. Noi destinati a rincontrarci, puntando il dito medio a chi tenta di separarci. E quando un giorno tornerai, vorrei rassicurarti e dirti che va tutto bene, ma ho la certezza che non servono parole. Il tempo che lo vuole, c'è il sole con nuvole nuove. E quando un giorno tornerai, vorrei rassicurarti e dirti che va tutto bene, sai, quella certezza che allontana le parole. Il tempo che si muove, torna via con sé ma non sappiamo dove. Focalizzare ciò che mi interessa, ma lo scenario è così grigio che attiro negatività per tutto il pomeriggio. Ti sto pensando, non ho voglia di nasconderlo. No, che non c'ho voglia. La gente esce, muore, rinasce, rimpiazza i vecchi amori che hanno nuove facce. E ogni partenza è una svista. Tra le cose da fare, rispettarti è il primo punto di sta lista. Ma questo treno si allontana e mi rattrista, perché c'ho seri dubbi che il mio amore per te finisca. Venti e ventidue all'ascolto di Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte, ormai giunti alla sesta puntata. Non so come faccio a tenerne il conto, dato che non mi ricordo neanche come mi chiamo. 3510913390, lo ripetiamo, 3510913390 per entrare in contatto con una redazione effervescente qui, che ormai sta acquisendo milioni di capacità per portare avanti questa radio per il resto della vita. e c'è gente che suda freddo a questa dichiarazione. Ma dunque, il tema della giornata è come abbattere i droni. Arrivano le prime proposte, queste penso che l'ispirazione sia dalla Palestina, biglie e mazzafionna, dai, questa ci sembra forse la più probabile, da sperimentare soprattutto sui palazzi un pochino più alti. Dunque, che dire, chiedeteci musica, proponeteci soluzioni a questo dramma dei droni. Something for your mind, something bella for questa. Your mind, something for your mind, something for your mind, braccia batti droni, un'altra delle soluzioni. For your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind. Bump, bump, bump. your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind. Way back when, where it all began, the beast rolled and declared, let there be tracks. Bring that shit back. Bring that shit back. Bring that shit back. Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte, 20 e 31 minuti primi. E allora il tema della serata, ve lo ripetiamo: come abbattere i droni. Prendete spunto dalla vostra immaginazione, facciamoci venire delle belle idee. Per ora, oltre i 7 consigli presi da un articolo comparso sul web, ci giunge Biglie e Mazzafionna. Siamo sullo scontato, vi prego, partecipate attivamente, proviamo a pensare. Sono giorni in cui anche io ho il cervello che funziona ben poco, e ve ne sarete sicuramente accorti durante queste dirette. E proverò sicuramente con diversi videogiochi ad attivare il mio pensiero. E questa notte ci metterò tutta me stessa. 351 09 13 390, ve lo ripeto, 351 09 13 390, per partecipare alla diretta di Radio Pirata 38. Questa puntata sembra così

Allora, un saluto ad ascoltatori e ad ascoltatrici. Vediamo che i numeri crescono nonostante la tarda ora. Di solito qui alle 8.45 siamo già a letto. E questa sera abbiamo deciso di raddoppiare con queste due ore di diretta, di musica, che un po' decidete voi, un po' decidiamo noi. Questa è l'unica traccia che tra l'altro stiamo scegliendo in questa serata, ci prendiamo questa libertà, scusateci tanto. Poi si prosegue con i Fichissimi e Gigi D'Alessio, restate all'ascolto. Si giunge quasi a conclusione della diretta, poi sapete ormai che la musica su Radio Pirata 38 non manca mai. 351-0913-390 per continuare a proporci la vostra musica. Purtroppo in coda abbiamo anche Gigi D'Alessio, ma per fortuna abbiamo prima i Fichissimi. E come dire, per domani proponiamo un dress code tutti in tuta, mandateci dei selfie senza le capocce. Tuta e ciabatte, regà, il dress code per domani. Pubblicate, mandateci le vostre foto via telefono. Vi giuriamo che non le pubblicheremo da nessuna parte, le teniamo per noi. Vogliamo condividere questi momenti così intimi con voi tutti. Quindi domani tuta e ciabatte per la diretta di Radio Pirata 38. Quest'oggi il tema è ancora come abbattere i droni. Vi sentiamo un po' tiepidi su tutto questo. andiamo avanti. E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in spazio, crearti le parte, non sono capace di stare a guardare quegli occhi di braccio e poi non provare un brivido dentro e come un sonno di darti di non guardo il tuo dito, ma penso di tutto, mi sveglio di tutto, però io ti trovo, ti seguo sicuro, non mollo, lo giuro, penso non è tutto, perché io ti amo. Ricominciamo, come le docce stasera, mi viene la voglia, ricominciamo, se mi ami davvero, mi sembri sincero, ricominciamo. Cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia, guai a quello che ti tocca. So che tu hai le stelle, gettarti nell'occhio del primo ciclone, non perdi occasione per darti da fare, per farti valere, ma fammi piacere, ti voglio aiutare, tu fammi trovare, ancora ti amo. Ricominciamo, come sei dolce stasera, mi viene la voglia, ricominciamo. Allora regalo, sappiamo che siete romantiche, romanticissimi dopo questa distanza sociale imposta, è chiaro che vi dedicate queste canzoni e dovrete ricominciare da capo le vostre relazioni. Regà, non se scopa, 351-0913-390 per raccontare le vostre masturbazioni. Mi domanda se l'amore è solo una parola e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscire se fa nera dove stai tu. Si tiene la luce aperta in due scuro, a notte poi metto giù paura. E un sorriso mezza una parola che non sai capire. L'amore s'azzecca in cuore come all'acqua e mare, quando s'asciutta resta sullo sale, cagliano giane trasere in te e non sapa. Stranamente stiamo sfumando Gigi D'Alessio, lo sentiremo nel caldo e nella solitudine delle nostre stanze. E ora vi regaliamo un pezzo di un pischello dei Monti Tiburtini, e così un po' a cazzo de cane andiamo oggi, ma ci piace così, alla grande. Restate all'ascolto, ci stiamo, eh! Che giro distratto, mi muovo di scatto e non riesco a guardarvi, pompo l'impianto, poi bevo l'alcol mentre spacco sti quarti, io ci rifletto, giro e non so dov'è che ho nascosto i miei drammi. Mi incazzo, giuro, però se mi scordo dove ho messo i grammi, è una vita. vita che sono al mondo. 19 gli anni compiuti, io ho toccato forte sto fondo, contando spesso i minuti. E stiamo sotto le case occupate, c'è la voglia di uscirne davvero. Camminiamo sopra queste strade, con in mano soltanto il veleno, con in mano soltanto quest'erba. Coloriamo sto mondo che puzza, fumarla io non so se serva, ma penso sia la cosa giusta. Se dormo di giorno si vede che la sera sto come si deve. La mia donna è come cicatrene, io mi sciolgo come fossi neve. Bevo mezzo bicchiere e lo lascio, accendo una toppa. Le sere mi sento uno straccio, aspettando col sole che scoppia. Non mi ricordo dov'ero, non vedo dove sto adesso. Distingo il bianco dal nero, non vivo dentro me stesso. Non mi ricordo dov'ero, non vedo dove sto adesso. Distingo il bianco dal nero, non vivo dentro me stesso. Non vedo niente, che cosa succede? Non sento niente, dormo di giorno e si vede. La notte guardo le stelle, so che in alto mi vede. Anche se faccio le L, la testa ci crede. Il cielo di notte è nero, mi sembra una tomba enorme davvero. Volo su una base che mi fa da tappeto, sono testimone del mio animo inquieto. A volte mi lascerei andare da solo, tuffarmi di testa dentro un buco nero. Spiccare una volta per tutte il volo, come un barbone strafatto di nero. Chiudi gli occhi e stenditi, se le volte che ho detto riprenditi. L'anima e il corpo fra sono legati e le barre sono i loro tendini. Se la vita vola e vige, un amore poetico, Beatrice. Il tuo Dio che dice, Dio mi ripeti offendimi. Morse tua vita mea, stella bruciata, una stella come dalla vedo dalla prua. Di un abitante di questo pianeta mi senti e cambi idea. Se ti sei perso la colpa è la tua, la mia vita un'odissea. Te lascia tutto se canto di sera. Sopra i palazzi fondali marini dipinti, noi siamo fatti di acqua, dovremmo stare tutti un po' più calmi. Siamo noi stessi la vera minaccia. La bocca è la cassa dell'anima, la mano che scrive di Fatima. Il testo qui sotto si cuoce, vado troppo veloce. Non mi ricordo dove ero, non vedo dove sto adesso. Distingo il bianco dal nero, non vivo dentro me stesso. Non mi ricordo dove ero, non vedo dove sto adesso. Distingo il bianco dal nero, non vivo dentro me stesso. Non vedo niente, che cosa succede? Non sento niente, dormo di giorno e si vede. La notte guardo le stelle, so che in alto mi vede. Anche se faccio le L, la testa ci crede. Radio Pirata 38, in diretta dal sesto ponte del Laurentino 38 in 38ena. E allora, tema della puntata d'oggi è come abbattere i droni. Abbiamo, come dire, elencato 7 metodi presi dal web, ce ne stanno arrivando altrettanti, ve li elenchiamo, alcuni sono complessissimi, raga. Biglie e mazzafionna, questo è semplice, fucile da paintball, scuregge come armi chimiche, la scopa tra l'altro si può anche prolungare, diciamo che ci sembra anche quella un'ottima opportunità. Poi c'è la cerebottana con pallette di stucco, hackeraggio di un clone e un se e i serci, vabbè, che se volete facciamo anche la traduzione per chi ci ascolta da altre parti del mondo. Il sercio è la pietra, il sasso. Poi ne abbiamo uno complesso, una rete quadrata con dei pesi agli angoli che viene sparata con una sorta di fionda o catapulta artigianale. I pesi, 4 sassi, servono a farla partire in aria. I sassi si aprono, no, si distanziano e la rete si apre e si impiglia nelle eliche del drone che va a picco. Olè, tiè. Allora, questo pensiero di ingegneria incredibile ci sembra davvero efficace. Grazie, compa! Una canzone dedicata a Zoe, un bacio! Allora, mancano pochi minuti alla conclusione di questa diretta di Radio Pirata 38, una puntata frizzante. Io sono in piedi, già in tuta e ciabatte per precedere il dress code che domani apparterà a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio ormai famigerata sul web. Tanti contributi dal resto del mondo e oltre a Fiumicino, che è il resto del mondo, c'è l'Olanda, che è piuttosto attiva. Dopo la nostra diretta noi rilanceremo il segnale di Hein Hein FM. Vabbè, è una radio debosciati olandesi che fanno dirette come noi altri. La musica è più accettabile della nostra, perché mi sa che non accettano proposte dall'esterno, ma grazie a voi noi siamo sempre i meglio. Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte, non va canna mai. Raga, dura solo un'ora questa traccia, restate per vedere quanta pazienza avete. Insieme a noi tutta la notte con questa traccia solo per voi. Pensateci ardentemente. 21:01 primi, siete all'ascolto di Radio Pirata 38, che tra poco rilancerà il segnale di una radio di compass olandesi, che olandesi in Olanda o dove cazzo gli pare, che suoneranno per noi tutti. Il tema della puntata d'oggi era come abbattere i droni e crediamo che abbiamo un vincitore. Non avevamo proposto nessun concorso, ma abbiamo deciso di far vincere un premio, e va a chi ha pensato questo marchingegno incredibile, che in realtà è più difficile a dirlo che a farlo. Una rete quadrata con dei pesi agli angoli che viene sparata con una sorta di fionda o catapulta artigianale. Guarda, se no la compriamo industriale dal 1600. I pesi, quattro sassi, servono a farla partire in aria. I sassi si distanziano e la rete si apre e si impiglia nelle eliche del drone, che va a picco. Olè, tiè. Allora, questa era davvero una proposta incredibile, che forse si potrebbe provare con lo stormo di piccioni, da poi indirizzare a sua volta nei confronti del drone che mio padre al mercato comprò. Ma siamo qui per concludere la puntata d'oggi, prima che davvero inizi a dare le capocciate al muro con la rincorsa, con il tema della puntata di domani, perché oggi vi abbiamo colti un po' impreparate, non così. Noi abbiamo premiato l'ingegno di questo soggetto che ci scrive dall'Olanda, un soggetto incredibile, ma per domani dovete prepararvi. Il dress code è tuta e ciabatte, con foto da inviarci. Non le pubblichiamo, ve lo promettiamo, non siamo persone che pubblicano foto, insomma l'avrete più o meno inteso. E abbiamo bisogno delle vostre foto per non sentirci soli nelle nostre condizioni quotidiane, che non accompagnano assolutamente la quarantena. L'unica cosa che sta mutando sono le scarpe da ginnastica, che si sono trasformate in ciabatte, ma il resto, la tuta non ci accanna mai, lo sapete, 365 giorni l'anno, in ogni contesto, sempre in tuta. Dopodiché abbiamo anche un tema: ricette svuota frigo. Quindi vogliamo delle ricette semplici con la merda che ci avete in frigo in questi giorni, e vogliamo consigli, le diremo in diretta. Non vi vogliamo cogliere impreparati, quindi ve lo ripeteremo fino all'infinito: vogliamo le vostre ricette. E non vogliamo pasta fatta in casa, queste cose così artigianali, elaborate. Vogliamo proprio roba da discount, vera monnezza per stare male mentre si sta male. Noi, sapete, ci teniamo alla salute, stiamo facendo il massimo per voi, ma voi dovete contribuire al nostro stare male. Dai regà, 351-09-13390 il numero che dovete tatuarvi in fronte per le prossime, non lo so, penso i prossimi millenni di quarantena che ci aspetteranno. Il Laurentino 38 è pronto all'apocalisse, siamo qui in postazione e pronti a combattere insieme a voi. Dai.